America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Am I satisfied with the relative competitive position of General Motors and Chrysler, the two companies we intervened in? Larry Summers, l'avete sentito? Larry Summers, grande personaggio dell'economia americana, grande personaggio dell'era di Clinton prima e di Obama dopo, perché è stato segretario al tesoro nell'amministrazione di Bill Clinton, è stato il capo dei consiglieri economici del presidente Obama e soprattutto è stato l'architetto con Ben Bernanke e con Tim Geithner di quella reazione che l'America ha cercato di avere quando si è trovata in crisi nel 2007-2009. Ecco, qual è una delle tendenze di cui vi ho parlato che negli Stati Uniti si è affermata negli ultimi anni? È un ritorno del manifatturiero. Si diceva il manifatturiero è finito, non si potrà più competere perché la concorrenza ormai la si misura su salari minimi di un dollaro al mese che magari vengono pagati in paesi emergenti e dunque non si potrà competere. Larry Summers direi rappresenta il simbolo della negazione di questa tesi pessimistica e lui stesso dice che c'è un rinascimento del settore manifatturiero in America. L'ha detto ieri a una, chiamiamolo un party di vecchi amici che si è tenuto alla Brookings Institution, uno dei grandi think tank di Washington. Perché? Perché c'erano vari personaggi, c'era lui naturalmente, ma c'era anche Steve Rattner, che è stato il guru del settore automobilistico per Obama, che ha impostato il salvataggio del settore auto, cosa ha detto ieri di cui non sapevo nulla, mi sono dovuto informare su tutto nei minimi dettagli. C'era anche Sergio Marchionne, amministratore delegato di Chrysler, uno dei protagonisti del rilancio di questo settore chiave del manifatturiero americano. Il dibattito dov'era? Ma ha fatto bene il governo a intervenire per salvare il settore auto o no? Sentiamo subito cosa ha risposto Sergio Marchionne. I mean, if you took a Japanese guy into our plant today, he'd be impressed. Ecco, se da una parte c'era il binario intellettuale, gli economisti, gli ex politici che cercavano così di dedurre dei movimenti tendenziali, perciò che riguarda il futuro del manifatturiero, Sergio Marchionne è arrivato letteralmente e direttamente dalla trincea con le mani, avrei detto sporche di fango, ma in realtà possiamo dire sporche di grasso, grasso che in realtà non esiste neanche più nelle fabbriche d'auto d'oggi, soprattutto in quella di Sterling Heights che ho visitato a Detroit. E difatti Marchionne dice: se un giapponese oggi viene a visitare i nostri impianti resta impressionato e capisce che costituiamo una minaccia. Perché una minaccia? Perché c'è stato il salto qualitativo, perché ormai la concorrenza su base internazionale non si gioca su un salario minimo o massimo o sul costo del lavoro soltanto, ma sulla produttività, sulla possibilità di avere tecnologia adeguata che ti consenta di migliorare l'efficienza. E devo dire, ve l'ho raccontato in un'altra puntata, gli impianti automobilistici americani sono ormai a quel livello, quello di Sterling Heights che ho visitato è sicuramente a quel livello, e una componente centrale, hanno detto gli esperti e ha confermato Marchionne, è quella della pubblicità, dell'immagine. Genetics have a voice you can only deny so long. They scream, go, run, act, find, dare. Where you go when you have the itch is free will. How you get there is why we made the new Cherokee. Ecco, uno dei grandi commercial, uno dei grandi spot pubblicitari, che devo dire sono stati tutti azzeccatissimi, di Marchionne, uno dei punti che è stato sottolineato è che attraverso questi spot pubblicitari si è riportato l'accento sull'importanza di fare le cose in America, sull'importanza dell'orgoglio americano. Non erano soltanto degli spot pubblicitari per la Chrysler, ma erano degli spot per un modo di essere, per un certo tipo di orgoglio che andava in qualche modo rispolverato e rassicurato. E così Marchionne ha detto, insomma, non stiamo a raccontarci delle storie. Una Ferrari non potrà mai essere made in China, anche se i cinesi lo dicono, è impossibile. La Ferrari deve essere made in Italy, così come la Jeep è americana, ha una connotazione americana, nasce in America, avremo dei centri produttivi da altre parti del mondo, ma resta un marchio americano. Marchionne dice è irrilevante dire che questa è la nazionalità di un business perché il capitale è venuto in America, il capitale italiano è qui, ha investito qua, quindi gli italiani ci perdono, o viceversa, se portiamo una produzione di Jeep in Cina allora perdono i lavoratori americani. Non è affatto così. Si stanno creando e costruendo dei brand che hanno una identificazione nazionale molto forte, e su quella identificazione nazionale la Fiat Chrysler di Marchionne intende puntare, con alcune chicchette e alcuni sassolini che Marchionne si è tolto dalle scarpe. I hate, by the way, showing up and saying, you know, rolling out as a CEO of Fiat Chrysler and showing you the new 500 electric. Ecco, dal punto di vista tecnologico produttivo, Marchionne dice il futuro resta dell'ibrido, l'auto elettrica, certo molto interessante, però io vi chiedo, per cortesia, vi chiedo un favore, non comprate la 500 elettrica. Ecco, può sembrare un controsenso che un produttore inviti i possibili consumatori a non comprare. Spiega perché, Marchionne, perché non c'è profitto nell'auto elettrica. Per ogni auto elettrica che voi comprate, io devo sborsare, mi costa, ci perdo, ben 14 mila dollari. Non ritiene Marchionne che ci sia futuro, almeno nei tempi immediati, da qui ai prossimi 10 anni, per l'auto elettrica, perché è in perdita, perché non riesce ad essere efficiente come il motore a combustione, e invece ritiene che le auto ibride possano avere un futuro e che la combustione stessa possa dare dei risultati straordinari, ed è sfidato a Washington, dal cuore di una delle istituzioni intellettuali di Washington, i governanti e grandi regolatori ambientali, dicendo: beh, io vi sfido a dimostrarvi che l'auto elettrica è davvero meglio di un prodotto avanzato ibrido. Secondo me non è così. Alcune notizie interessanti che sono emerse. Beh, un retroscena: la General Motors doveva prendere lei la Chrysler, Obama voleva che finisse così, ma poi la General Motors non l'ha voluta. Ratner, che organizzò poi l'affare, ricorda che si poteva andare avanti con la Chrysler solo se si fosse trovato un grande manager internazionale. Questo manager fu Marchionne. Il negoziato, disse, fu intenso, e Marchionne ne ha approfittato per attaccare il concorrente diretto, cioè la General Motors, dicendo: beh, la General Motors ha avuto delle condizioni più vantaggiose sul piano finanziario di quelle che abbiamo avuto noi. Avete sbagliato, ha detto a Summers e a Ratner, perché se gli avesse imposto la stessa severità che avete imposto a noi, beh, oggi forse la General Motors sarebbe molto meglio di quello che è. Vi ricordo che la General Motors ha dovuto richiamare milioni di modelli che erano stati costruiti male, ha pagato l'altro giorno una multa record di 35 milioni di dollari, ma la sfida qui non è America su America, Chrysler su General Motors. La sfida è una sfida che riguarda tutti coloro che operano nel settore manifatturiero, soprattutto l'Italia. Anche noi, io sono sicuro, se applicheremo alcuni di questi modelli per la crescita e per la flessibilità, potremo dire la nostra. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.